Hashtag Autotrasporti. Buonasera ad Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì con il mondo dell'autotrasporto, un settore che dalla scorsa settimana a Radio 24 racconta, focalizzando l'attenzione sui temi, le questioni, le sfide di un comparto cruciale per la vita economica e sociale del paese. 200.000 i posti di lavoro persi nel settore dal 2008. Per quanto si intraveda un po' di luce in fondo al tunnel, a confortarci sono alcuni recenti dati sull'aumento dei traffici, per il settore dell'autotrasporto sono stati anni difficilissimi. Ad inquadrare l'impatto della crisi con la nitidezza tipica delle cifre è stata una ricerca commissionata da UNRAE, l'Associazione dei Costruttori Esteri, a GIPA Italia. Giusto qualche numero. Tra il 2008 e il 2013 ben 2.000 flotte del trasporto merci hanno cessato l'attività, il 12% delle aziende con più di 6 mezzi ha chiuso. Molte poi hanno trasferito la propria sede all'estero, innescando un vero e proprio esodo, e le cadute occupazionali sono state pesantissime. In tutta la filiera dell'autotrasporto sono stati cancellati quasi 200.000 posti di lavoro. A commentare la ricerca è in linea con noi Giancarlo Codazzi, presidente della sezione industriali di UNRAE. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ci scatta un'istantanea del suo studio. Diciamo che come studio abbiamo voluto capire il fenomeno di una importante riduzione dell'immatricolato dei veicoli industriali, e sulla base di questo dato oggettivo abbiamo cercato le cause che portavano a una così importante riduzione. Ecco, questa è stata la scintilla che ha fatto sì che URAE volesse approfondire questo strano fenomeno. Fenomeno che è determinato anche dall'esodo delle imprese all'estero, mi conferma? Sicuramente una parte della riduzione è dovuto a purtroppo il calo di PIL che abbiamo visto nei 5 anni del 9%, ma anche sicuramente dalla attività che alcune aziende fanno di portare all'estero le proprie aziende, i propri veicoli, e questo ha creato un ulteriore faro quantificabile in circa 5.000 veicoli all'anno dal 2009 fino al 2015 attualmente. Ecco, dovesse elencarmi le cause, quali sono? Ma le cause sicuramente sono principalmente tre. Il primo, che è quello più importante, è sicuramente il costo della manodopera in Italia del trasportatore, dell'autista, completamente scompensato rispetto a quello che è il sistema remunerativo nei paesi dell'est soprattutto. Parliamo di un costo italiano, è stato detto, attorno ai 65.000 euro per l'azienda rispetto ai 24-25.000 euro per lo stesso parametro nei paesi dell'est. Questo è il primo fattore importante. Il secondo fattore è sicuramente una fiscalità molto forte in Italia rispetto alla fiscalità all'estero. L'indagine dice che, dato 100 un livello burocratico italiano, all'estero c'è un livello burocratico di circa 50-50, dato i punti percentuali. Quindi in Italia c'è una doppia difficoltà burocraticamente parlando. Giancarlo Codazzi, grazie e buonasera. Grazie a lei. Nel settore dell'autotrasporto il dumping sociale è innescato dal cabotaggio stradale, in sostanza la possibilità da parte delle imprese di operare in uno stato estero seguendo regole e norme sul lavoro in contrasto con quelle applicate nel paese nel quale si presta il servizio. La conseguenza è abbastanza semplice da capire: il costo della manodopera, la fiscalità e altri standard operativi sono differenti e alterano gli equilibri di mercato, determinando forme di concorrenza sleale. Stasera trattiamo questo tema, questione centrale per la categoria. Peraltro di questo tema la settimana scorsa ha discusso il Parlamento europeo, mentre la Spagna sta valutando una legge ad hoc. Per parlarne iniziamo il nostro giro di ascolto dei rappresentanti delle varie categorie degli autotrasportatori, e nel corso delle prossime puntate ascolteremo tutte le associazioni su questo e su altre questioni. In linea con noi c'è Paolo Uggè, presidente di FAI Conftrasporto. Buonasera Uggè. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, ci fa qualche esempio pratico degli effetti del dumping sociale applicato alla categoria degli autotrasportatori? Trasportatori. Ma, basterebbe guardare quanto lo Stato dal 2008 al 2013 ha incassato di meno per quanto riguarda la fiscalità in generale nel mondo dell'autotrasporto, e scopriamo che siamo quasi a 9 punti di PIL, cioè stiamo parlando di 11,3 miliardi di euro, e questo naturalmente deriva dal fatto che le imprese, di fronte ha un costo del lavoro elevato. Tenga conto che noi abbiamo un costo del lavoro orario di 28,3 euro, mentre la media UE è di 24,6 euro ora, chiaramente, ma abbiamo paesi come la Bulgaria che ha 3,8 euro ora, la Romania 4,6 euro ora, è evidente che le imprese, soprattutto i traffici internazionali, per non perdere competitività, delocalizzano e vanno a spostare la loro attività in quei paesi. Il numero di veicoli che sono stati spostati, diciamo, per effetto di questa iniziativa, è 26.000 veicoli in questo periodo. Quindi il dato dimostra quanto sia grave la situazione. Ecco, ci sono stati paesi che hanno approntato misure legislative per favorire le imprese nazionali. In Italia? Ha cominciato, diciamo, la Germania a introdurre il principio del salario minimo obbligatorio per coloro che effettuano operazioni di trasporto nel paese appunto in oggetto. Ha seguito poi la Francia e la stessa Spagna sta pensando ad iniziative. Noi ovviamente abbiamo prontamente posto non solo la questione al nostro governo, perché si tratta di misure tampone comunque, perché poi se non ci sono i controlli diventa la stessa storia del potaggio, dove dovrebbero fare 3 operazioni e gli operatori che vengono a operare nel nostro paese invece non sono controllati e possono scorazzare liberamente lungo le nostre strade. Noi abbiamo avanzato in sede europea, abbiamo avuto un incontro proprio con gli uffici del commissario e la strada giusta sarebbe quella di stabilire un minimo in tutti i paesi europei. Se vogliamo realizzare il mercato comune, come da tempo diciamo e come continuiamo giustamente a sostenere, non possiamo avere una situazione che pesa così significativamente sui costi delle imprese. Allora ci si muova, questi eurocrati, anziché pensare alla dimensione delle banane o i piselli, si affronti il tema del costo del lavoro e si stabilisca per coloro che si muovono un registro internazionale. Del resto è stato fatto per i lavoratori marittimi, si può fare anche per i lavoratori dell'autotrasporto. Grazie e buona Pasqua. Grazie altrettanto a voi. Grazie. E in linea con noi ora c'è Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. Il dumping, una piaga o un'emergenza? Direi che è una piaga e poi anche un'emergenza, anche perché ormai con la delocalizzazione delle aziende anche italiane che si sono delocalizzate all'estero e anche con la concorrenza estera, vedo che tutti gli altri stati stanno difendendo le loro posizioni, diciamo, come singoli stati, applicando salari minimi in Germania, in Francia, adesso in corso anche in Spagna, quindi viene fuori e arriva un dumping sociale a livello europeo, soprattutto che ne subisce l'Italia, che non si muove. Perché non si muove? Non si muove, questo è da valutare, sembra quasi che la politica non reputi essenziale e strategico il mondo del trasporto. Da tempo come associazioni sollecitate più controlli, ma strumenti e forze paiono sostanzialmente insufficienti. Senza ombra di dubbio, anche perché abbiamo lavorato 10 mesi per portare a casa quella famosa inversione dell'onere della prova e poi ci ritroviamo oggi, dopo 10 mesi di fatica, a sentirci dire non è applicabile, che sarebbe stato un primo elemento per combattere il cabotaggio abusivo. Stiamo lavorando anche noi, spingendo, ne avevamo già parlato col ministro Lupi in precedenza, adesso vediamo col nuovo ministro, ma soprattutto di valutare queste normative francesi, spagnoli e tedesche, come le dicevo prima, per creare un salario minimo europeo anche da parte dell'Italia. Oggi abbiamo sentito Conftrasporto e Confartigianato, nelle prossime settimane sentiremo i rappresentanti di altre associazioni di categoria. E ora alla rubrica sulla storia di un bene o di una merce, come viene trasportata dal momento in cui è prodotta a quello in cui viene distribuita o consumata. Oggi parliamo di alta moda, come cioè capi, accessori di pregio e grande valore commerciale vengono veicolati in giro per l'Italia e per il mondo. Valeria Grandi ha sentito Marco Fugolo di DHL. Le fabbriche da una parte e il cliente finale dall'altra. In mezzo c'è un trasporto primary, che sarebbe dalla fabbrica a un magazzino centrale, il magazzino centrale che crea gli ordini, il fornitore fa la commessa di tutte giacche uguali, di tutte le taglie, poi arrivano in magazzino, il cliente, cioè il mio cliente di turno, mi manda gli ordini, a questo punto io preparo l'assortimento per il negozio e lo mando in negozio col trasporto secondario che va in distribuzione. Bisogna essere attrezzati per gestire il mondo della moda, perché stiamo passando da un trasporto di una scatola, di un collo, a quello che è il mondo, tutto il mondo del capo appeso, cioè spedire in appeso bisogna avere delle strutture, delle barre, comunque una struttura di un certo tipo. Ricordando sempre, ultima cosa, che c'è il discorso del luxury, stiamo portando un gioiello, quindi tutto quello che riguarda il mondo del trasporto deve essere televigilato, satellitato, deve essere controllato, c'è un discorso di sicurezza. Autotrasporti termina qui. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di Radio 24 con il mondo dell'autotrasporto: il mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14. Buonasera a tutti. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.